Tutti convocati weekend con Giovanni Capuano. 800 24 0024 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure potete seguirci diretta Twitter, @ tutti convocati belli carichi, perché oggi voglio essere polemico, ve lo dico. C'è Gagliani in missione a Madrid per riportare al Milan Kakà con un giallo, tra l'altro, che proveremo a chiarire, e poi ci sono le ultime ore di mercato, c'è un valzer di attaccanti che potrebbe riguardare Juventus, Roma e Genoa, c'è il mal di pancia di Conte, che secondo me ha detto un'assurdità sul lavoro di Marotta e della Juventus, ci sono insomma tanti temi. 800 24 0024 per chiamare in diretta fino alle 19, un appuntamento che vi dovete segnare sull'agenda perché vi terrà compagnia sino al termine di questa stagione. E adesso, come tradizione, la nostra prima pagina. Quante parole sprecate, quanti pronostici inutili, le sette sorelle, tutte in corsa, tutte competitive, invece no, siamo all'inizio di un lungo duello, quello della Juventus contro il Napoli. La Juventus ha tre fenomeni che sono Pogba, Vidal e Carlitos Tevez. Dentro per Vucinic, il velo per Tevez, grande giocata del Montenegrino, ancora Tevez, sterza, va sul destro e lo piazza, tre gol in tre partite, il primo allo Juventus Stadium, Carlitos Tevez, 4-1. Tre partite ufficiali, tre vittorie, nove gol fatti, uno solo subito. Benvenuti nell'era della Juventus indebolita, come dice Conte. Però anche il Napoli ruba gli occhi. Hamsik era l'unico insostituibile, infatti non è partito. E Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín cerca il triangolo con Insigne. Higuaín! Higuaín! Eccola, la prima volta del Pipita con la maglia del Napoli. Gonzalo Higuaín al 25esimo della ripresa. 4-2. Napoli o Juventus, oggi tocca alle altre rispondere, ed è vietato sbagliare perché Conte e Benitez sono già lanciati a velocità piena. Sentite Rafa. Lui è furbo perché si gioca con un attaccante a 5 in panchina, mi sembra che non è debole. Perdere un giocatore e un attaccante quando hanno 6, non so se questo si può dire che è una squadra debole, mi sembra che lui era un po' furbo ieri. E Conte, la sua risposta, altro che Juve indebolita. Sappiamo che il Napoli non può esimersi dal ruolo di protagonista e di favorita, visto tutto quello che ha speso in campionato, il mercato che ha fatto, e il Napoli non si può esimere dal fatto che deve giocare per vincere come il Napoli e altre squadre. Loro due corrono mentre gli altri pensano ancora a come cucire, rattoppare, rinforzare, guardano Madrid, sognano l'esterno, l'attaccante giusto, osservano a distanza il grande duello. E a proposito di duelli, questa è una domenica strana, di attesa, però c'è stato anche il duello di Silverstone, Marc Marquez caduto, lussato e rimesso in piedi per miracolo contro Jorge Lorenzo. Duello dentro Marquez, se non fa lungo un miracolo, ce la fa! Ce l'ha fatta, controcurva, Marquez, di nuovo davanti a Lorenzo, grande all'interno, Lorenzo. È così che si grande. Fa, che lezione di motociclismo, oggi Lorenzo c'è. Ed è una domenica di attesa anche per il basket azzurro, andiamo in Slovenia a giocarci un europeo decimati dagli infortuni, ma se scommettete in una grande Italia disegnata da Pianigiani non rischiate nulla. C'è bisogno che si giochi con un po' di dignità, con un po' di anima, cazzo, nessuno fa un soldo, un fallo con la palla lì, facciamo cazzotti almeno. Dai, ma che cazzo avete dentro? Tutti convocati. Oh, io ho ancora i brividi per il duello tra Marquez e Lorenzo, duello leggendario, primo Lorenzo, secondo Marquez, terzo Pedrosa, quarto a rispettosa distanza Valentino Rossi, però gli ultimi due giri sono stati da brividi. Buon pomeriggio a Carlo Genta. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Ciao Carlo, io non so se l'hai visto, da brividi mi ha ricordato sì. Valentino Rossi quello vero, non quello che gira per le piste in questi ultimi anni. Sì, ma di sicuro, l'ho visto altro che, figurati se me lo perdo, da saltare sul divano, come dice qualche volta Guido Meda. Insomma, abbiamo visto due fenomeni, uno lo conosciamo bene, Jorge Lorenzo, l'altro è Marquez che vincerà questo mondiale, poi alla faccia dei dolori dolorini che sentono spesso gli sportivi e tirano indietro la gamba, questi sono dei passi, cadono, rischiano la vita, si spaccano le ossa, salgono, corrono come se niente fosse e poi ci pensiamo. comunque la, insomma, la, la notizia è che Marquez ha intanto battuto Pedrosa, che era il grande favorito sulla moto migliore, che è la Honda. Pedrosa, io non, è impossibile ora vederlo come, come campione del mondo. Marquez vincerà questo mondiale, Lorenzo merita l'onore delle armi, Valentino Rossi, vabbè, spiace dirlo, ma forse gli anni davvero passano per tutti, perché, perché insomma, al quarto posto siamo qui, siamo contenti, ma è chiaro che Valentino Rossi, che ci ricordiamo, è un'altra cosa. Sì, a rispettosa distanza, sì. I primi tre viaggiavano però a un'altra velocità, facevano un altro sport, oggi hanno regalato altre emozioni. Marquez caduto nel warm-up, finito alla clinica mobile, lussato, forse fratturato, partecipazione al Gran Premio in forse, poi è partito, come è andata a finire l'avete sentita. 800 24 00 24, per le vostre telefonate in diretta. Io l'ho detto, oggi voglio essere polemico, perché ci siamo riempiti la bocca per settimane del campionato con 6-7 pretendenti, poi secondo me i verdetti di ieri, del secondo sabato di campionato, dicono che altro che storie, c'è un duello, lo abbiamo capito anche noi, lo sanno soprattutto loro, e mi sembra che Conte e Benitez abbiano già iniziato a pungersi come fosse il momento decisivo. Sì, intanto mentre pensavo a Marquez mi veniva in mente la zagara di Higuain, no? Ci abbiamo anche scherzato sopra tutta la settimana, e non so se De Laurentiis ha ritirato la causa allo scoglio di Capri, però insomma, onestamente, d'estate si dice qualunque cosa, ma era evidente, non è la logica dei fatti, che la Juventus fosse la grandissima favorita, che solo lei può perdere lo scudetto. Nel caso in cui la Juventus... Ah, io non sono d'accordo, Carlo, te l'ho già detto, io penso che il Napoli questo scudetto lo possa vincere, me lo dice anche la facilità con cui ieri ha battuto un tabù come quello di Verona, dove il Napoli storicamente ha sempre sofferto. Ma Napoli è fortissimo, e tutto il campionato ti fa Napoli, perché tutti quelli che non tifano Juventus e che vogliono vedere un campionato ti fanno Napoli, non c'è dubbio, l'abbiamo detto e lo facciamo anche noi il tifo per il Napoli in questo senso. Sì, è meraviglioso Napoli di Benitez, molto divertente, è molto completo, molto profondo. Secondo me la Juventus rimane un'altra cosa. Ieri il Napoli ha giocato una grande partita in trasferta, è molto pericoloso, ripeto, è molto profondo, ha molta qualità. E poi Conte non, tu sentivo prima la copertina molto bella, Conte non ha torto quando dice, quando si lamenta della cessione di Matri, non tanto perché viene meno Matri, ma perché darlo al Milan. Sì, però io credo che Conte sia andato assolutamente fuori misura venerdì, come si fa ad attaccare una società che ti ha portato un giocatore importante come Tevez, e stiamo cominciando a vedere che tipo di giocatore è, in fondo ti ha ceduto due riserve, perché Giaccherini e Matri erano due riserve. Io mi chiedo che cosa si può pretendere di più, perché una società non può fare un'operazione di questo genere, non ne può fare due, va bene, è andato al Milan, poteva addirittura finire al Napoli, secondo me sarebbe stato un errore ancora maggiore da questo punto di vista da parte della Juventus. Però io ti dico la verità, a me questo Conte mani avanti di questo inizio di stagione non piace sinceramente, sta facendo un lavoro straordinario, la Juventus di ieri sera lo conferma, non riesco a capire perché sia in lotta perenne con questi fantasmi, con questa necessità di fare i conti in tasca agli altri. Perché Conte è così, non è nemmeno la prima volta che fa di queste uscite, è vero fuori luogo, è vero inopportune. La Juventus, Marotta ha lavorato benissimo e nessuno pensa diversamente, nemmeno Conte. Però è uno che ha ragione Benitez, no? Intanto fa il furbo. Questo è uno dei casi. Conte ha fatto il furbo mettendo le mani avanti, ma per togliere pressione alla sua squadra, eccetera, eccetera. Attaccare la società non ha senso, tanto che mi pare che ieri abbia in parte ritrattato, come si fa sempre in questi casi, no? Come siamo abituati a sentire sempre in questi casi. Ripeto, del Milan si dice che il peccato capitale di Allegri, quante volte l'abbiamo sentito, è stato quello di non tanto di cedere Pirlo quanto di cedere alla Juventus. Il Milan anche con Matri non è competitivo per lo scudetto, nemmeno dovesse arrivare Honda, figuriamoci che è una barzelletta. Ma darlo al Milan, secondo me, in questo senso forse non aveva tanta logica, al Napoli men che meno. È vero, Matri era una riserva della Juventus, così come una riserva della Juventus Quagliarella, la Juve ha un sacco di attaccanti, inutile, anche se Matri per caratteristiche era un attaccante unico non replicabile. A proposito di attaccanti, noi adesso ci fermiamo per il traffico al rientro e vi diamo la notizia di che cosa sta maturando tra Roma, Genova e Torino, davvero un valzer che avrebbe del clamoroso, anche se siamo abituati alle ultime ore di mercato particolarmente vive. Tutti convocati. 800-24-00-24 per le vostre telefonate in diretta, 349-238-6666 per i messaggi. Scrive un amico, Conte fa bene a lamentarsi perché per vincere a certi livelli servono riserve del genere, come Giaccherini. Va bene, serve tutto, però secondo me la Juventus ha diritto di vendere due riserve, senza per questo che Conte metta le mani avanti. A proposito di attaccanti, carissimo Carlo, notizie degli ultimi minuti. La Juventus ha chiesto Gilardino al Genoa, e questo perché è in partenza anche Quagliarella, potrebbe andare a Roma e il triangolo si chiuderebbe con il passaggio di Borriello al Genoa. Questo sta maturando in questa domenica pomeriggio in cui aspettiamo di vedere cosa accadrà questa sera e soprattutto domani fino alle 23, che cosa ci regalerà il mercato. Mi sembra, Carlo, movimenti che eventualmente non sposterebbero nulla del discorso che abbiamo fatto su Juventus, Napoli e su tutte le altre. No, anche se poi diventa legittimo chiedersi perché vendere Matri a prendere Gilardino, cioè non so quali siano i costi dell'operazione, non so se la Juventus possa intascare o risparmiare qualche spicciolo, però insomma la domanda può essere legittima. Piuttosto ti chiedo io come siamo messi con la storia Kakà, perché è quella che più mi fa ridere, mi diverte. Siamo messi che Galliani sta parlando con Perez, il loro incontro è iniziato nel primo pomeriggio, comunque sta per iniziare in questi minuti. Oggi il Real Madrid faceva partita di campionato contro l'Athletic Bilbao, vinta 3-1 con doppietta di Isco e, dicono le cronache, grande gara di Modric, cioè proprio gli uomini che insieme a Dosil rendono impossibile la permanenza di Kakà al Real Madrid. C'è un giallo perché con Galliani a Madrid c'è Nelio Lucas, proprietario del fondo Doyen, e cercheremo di capire che cosa ci fa a Madrid. Galliani ha detto è difficilissimissimissimo che Kakà torni al Milan, non so nemmeno quanto utile, ma questo lo chiediamo anche agli amici a casa, 800 24 00 24. Io ho una mia idea, ne parliamo fra qualche minuto, abbiamo anche un ospite di quelli importanti per confrontarci su Kakà. Tu Carlo cosa ne pensi? Io penso che Kakà sia un giocatore ampiamente sul viale del tramonto, l'ho già detto, cioè sia nemmeno all'inizio del viale del tramonto, sono 4 stagioni, cioè da quando è andato a Real Madrid già con problemi fisici, smentiti ovviamente al momento della cessione da Galliani. Di fatto Kakà a Real Madrid non è mai stato il Kakà del Milan, nelle ultime 3 stagioni il campo non l'ha visto mai o quasi, dunque facendo i conti a 31 anni mi domando che senso abbia anche un ritorno di questo tipo, che potrebbe anche assomigliare a quello di Shevchenko, che ben ti ricorderai. Sì, poi potrebbe essere il leasing magari fino a marzo, anche se ho raccolto voci da ambienti vicino al Milan per cui se Kakà arriva fino a giugno, avremo poi modo di parlarne. Grazie Carlo. A te Giovanni, buon lavoro. Grazie a Carlo, grazie a Carlo Genta, domani dalle 14 tutti convocati. Sì, c'è qualcuno, Roberto da Milano, 349-238-6666, che ricorda proprio l'esperienza del secondo Shevchenko al Milan. Che tristezza, povero Milan. Andiamo all'Olimpico di Roma, Guglielmo Timpano, ciao Guglielmo. Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio alle amiche e gli amici all'ascolto. Perché siamo a una quarantina di minuti da Roma-Verona, che è partita che si gioca con una curva chiusa per razzismo, è la seconda volta in 2 giornate, speriamo di fermarci qui, anche se io ci credo poco. Prego Guglielmo. Allora, noi siamo fuori dallo Stadio Olimpico in questo momento, perché proprio in virtù della situazione logistica un po' particolare con la curva sud che è stata chiusa, abbiamo voluto, e per far questo anche rapito un collega, ne pagherò credo le conseguenze, si tratta di Fabio Maccheroni di Leggo, abbiamo voluto vedere qual era la situazione proprio in merito a questa chiusura. Intanto Fabio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, abbiamo pensato che potessero venire i tifosi della Roma per far sentire il proprio supporto, no, alla squadra. In realtà in questo momento vediamo piuttosto deserto. Sì, praticamente non c'è assolutamente niente. Non so se è più triste questo o vedere la campagna acquisti che ha fatto la Roma in cessione, in fase di cessione. Quindi due cose molto tristi, vedere una curva chiusa. Purtroppo sono state prese queste decisioni che non so quanto poi possano servire per il proseguo della stagione, evitando dei cori razzisti. Come sentito Giovanni, è molto filo societario Fabio Maccheroni, estremamente allineato. Sì, allineatissimo, ma non sono allineato nemmeno io. Ad esempio, in queste ore continuo a chiedermi che senso abbia che la Roma non ceda De Rossi. Non so neanche che tipo di accoglienza possa avere De Rossi oggi in quello che resta dello Stadio Olimpico. Mi sembra che ieri Garcia abbia provato a preparare il terreno dicendo De Rossi è un grande uomo, mi aveva promesso che sarebbe rimasto se oltre una certa data non arrivava l'offerta giusta. Io fossi stato nei dirigenti della Roma, non so come la pensi tu, De Rossi l'avrei impacchettato e portato a Manchester di corsa. Ma guarda, se vuoi tipo processo di Biscardi litigo subito in diretta col mio amico Fabio Maccheroni, perché lui è De Rossiano convinto. Io credo che alla Roma avrebbe fatto ben comodo privarsi innanzitutto di un ingaggio che sfora altamente quello che è il tetto salariale. De Rossi guadagna 6 milioni netti, e poi soprattutto Fabio, un giocatore che non ha reso per quello che ci si aspettava negli ultimi 2 anni e mezzo. Ma secondo me non è che non abbia reso come ci si aspettava, probabilmente la Roma aveva una squadra che non ha reso come ci si aspettava, perché con Luis Enrique De Rossi ha fatto una buona stagione finché ha retto la squadra, poi è crollata la squadra e è crollato lui. Quest'anno non si trattava di infiocchettarlo, come tu hai giustamente detto, probabilmente la società la pensa come te. Il guaio è che per infiocchettare una persona non la puoi rapire, né gli puoi puntare la pistola alla tempia. Qui c'è un contratto e il contratto fa testo. De Rossi non vuole andare via da Roma, anzi sarebbe andato via nel periodo di Zema, perché penso sarebbero andati via tutti, penso anche i portinai di Trigoria. Come sentite Fabio, anche un grande estimatore del boemo, cioè, sì, si capisce dalle parole. Senza dubbio. Adesso lui ha detto chiaramente che vuole restare a Roma, è contento di stare a Roma. Quando ha parlato con Garcia probabilmente lui pensava di dover partire da Roma, era pronto ad andarsene, però ha assicurato l'allenatore che trascorso quel periodo che avrebbe consentito al tecnico di mettere in piedi una squadra, cioè di provare la squadra che sarebbe scesa poi in campo in campionato, lui sarebbe rimasto. Lui è stato di parola, la Roma un po' meno, perché gli ha tolto i giocatori e ne sta prendendo degli altri adesso, evidentemente vanifica tutto quello che è stato fatto in questi mesi di preparazione. Ecco, l'angolo della malignità, per chiudere Giovanni, è ovviamente legato a quell'espressione un po' particolare di Walter Sabatini dopo il gol che ha sbloccato la partita della Roma a Livorno, l'ha segnato proprio Daniele De Rossi. E quella è stata una disperazione o un moto, come dire, di rilassamento dopo tanta tensione accumulata? Ma io quello lì penso che si sia rilassato per il gol della Roma, perché se non vincevo quella partita avrebbe fatto fatica a tornare a Trigoria, pure a casa a Trigoria, perché con quello che si stava spargendo in quelle ore, cioè la notizia di quelle ore della cessione di Lamela, penso che sia stata la pugnalata più cattiva che è stata inferta ai tifosi della Roma. E come vedi Giovanni, è una ferita, sì, Guglielmo, persa la cessione di Lamela. Mi interessa anche capire che riscontri avete voi da Roma su questo possibile arrivo di Quagliarella. La notizia degli ultimi minuti, poi ti lasciamo entrare all'Olimpico, poi ci risentiamo fra qualche minuto, è che non c'è Borriello nell'undici titolare di Rudy Garcia. Borriello dovrebbe andare al Genoa, Gilardino è stato chiesto dalla Juventus al Genoa. Tutto questo giro porterebbe Quagliarella alla Roma, avete riscontri? Allora, riscontri immediati non ne ho, ma chiaramente tra poco ci sarà modo di confrontarsi anche in tribuna stampa con gli altri colleghi. Sapevo che la Roma era interessata a Matri, ma con uno scambio di prestiti che poi non è andato a buon fine. In quel caso la Juventus sarebbe andato Marchigno. Chiedo a Fabio Maccheroni, Quagliarella alla Roma, una notizia sulla quale hai lavorato, una notizia che ti risulta, come lo vedresti? Beh, Quagliarella penso che sarebbe tra gli attaccanti che vengono proposti in questo momento alla Roma, penso che sia quello che si adatterebbe meglio alla Roma di Garcia. Sarebbe un ottimo acquisto, bisogna vedere se la Juventus si priverà anche di lui o e accetterà un altro sfogo di Conte dicendo che si sono indeboliti ulteriormente. Sì, il sondaggio a quel punto sarebbe quale sarebbe la reazione di Antonio Conte a un'altra cessione. È tutto Giovanni. Grazie Guglielmo, ci sentiamo fra qualche minuto nell'immediato prepartita di questo Roma-Verona. L'abbiamo detto la notizia, non gioca Borriello, potrebbe finire al Genoa. 800 24 00 24, ci sono anche altre notizie che arrivano da Madrid, aggiornamenti sulla vicenda Kakà appena verificati ve li diamo. Andiamo invece in provincia di Siracusa. Paolo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche per altri. Prego. Io volevo intervenire perché sono in macchina e sto andando verso Catania, esattamente allo stadio di Catania, per vedere Catania-Inter. Io sono stato e sono tuttora, da quando avevo 10 anni, tifoso del Milan. Però questo Milan che i leggendi vogliono a cacà, per me è una cosa assurda, assurda, perché è impensabile che un giocatore ormai spremuto, ormai per me è quasi finito, spendere questi soldi. E poi, come già l'avete detto in trasmissione, anche se viene Honda, viene un altro, non è competitiva la squadra, sia in Champions sia in campionato. È questione, quindi, è questione di prospettive, Paolo. Di prospettive, vedi, io la vedo così. Paolo, la vedo come lei. Io, con in più un aggravante che trovo irrispettoso per il lavoro di Allegri, dopo 2 mesi di preparazione, con una squadra che comunque è stata funzionale alla qualificazione in Champions League, ha anche giocato bene con il 4-3-3, con il Sharawi attaccante esterno, tutto quello che abbiamo visto. Dopo 2 mesi di preparazione viene ceduto Boateng, e ci posso anche stare, ma soprattutto viene recapitato a Milanello un trequartista ingombrante che obbliga Allegri a riscrivere da zero gli equilibri soprattutto offensivi di questa squadra, non so poi con quali vantaggi. Grazie Paolo, abbiamo pubblicità e meteo, poi ripartiamo con Italo dalla provincia di Varese. Domani utilizzeremo, no? Un piccione viaggiatore. Tutti convocati. Alessandro scrive su Twitter, chiocciola tutti convocati, il ritorno di Kakà non ha nessun senso, ma meglio lui zoppo che Boateng sano. Secondo me non ha nessun senso e basta. Italo dalla provincia di Varese, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. A tutti i radiospettatori, a lei. No, un commento su Tevez. Oggi ho visto una foto con quando ho festeggiato sul gol, con su scritto appunto Forte Apache. Ho chiesto a mio figlio il motivo, no? Come mai lo chiamavano l'Apache, mi ha detto ma perché viveva in un quartiere che appunto era un po' malfamato. Questione di quartiere, era molto malfamato, molto era malfamato. Uno dei barrio della sua città, prego. Esatto, mi è sembrato bello, diciamo, l'idea, perché lui mi dice ma guarda, adesso vuole mettere sulla maglia, se noi inviamo il nome dei vari quartieri della città, dei tifosi juventini, vuole mettere sulla maglia un omaggio ai tifosi. Ecco, era un'idea di integrazione e di allacciamento al tifo, al quartiere, che mi sembrava così giusto esprimere. Ecco. Sì, ma Tevez è un personaggio, oltre a essere un ottimo giocatore, secondo me non un fuoriclasse in assoluto, di sicuro un giocatore che alza, come ha detto Marotta, il livello qualitativo della Juventus, ha avuto un ottimo inizio di stagione, ieri ha fatto un gol meraviglioso, così come bella è stata la traversa che ha colpito, due gesti che fatti da lui sono sembrati semplicissimi, invece erano gesti tutt'altro che semplici. La Juventus è sicuramente migliorata, io credo che non abbia colmato il gap con le grandi d'Europa, se l'obiettivo che si vuole dare la società è quello di arrivare in fondo in Champions League, però di sicuro è una squadra che ha trovato quel terminale che l'anno scorso è mancato. Il termine di paragone Juventus-Lazio di un anno fa, 0-0, un assedio, Marchetti il migliore in campo, ieri sera partita dominata seppure con una pausa di una ventina di minuti, però con un uomo come Tevez che al di là del gol sicuramente aiuta anche gli altri ad andare in porta. Carlo da Modena, buon pomeriggio. Sì, sono in linea. Prego. Bene, che meraviglia intervenire nel momento che parlate di Tevez, perché io sono un italiano nato in Argentina. Ma avevamo qualche sospetto, ascoltando il suo accento. Dica Carlo. Bene, grazie. Sebbene sono un titolare patrimoniale del Boca Juniors, di cui Tevez deriva, il mio tema era il motorismo. Sì. Difendere un attimino il buon Valentino, che ormai tutti abbiamo capito che è nella parabola discendente, però proprio in quanto italiano è nato in Argentina nel 57 e c'era il dolore di non aver visto Fangio correre, Valentino mi ha compensato di questa mancata allegria. Sì, okay? Carlo, merita rispetto Valentino Rossi, merita rispetto in questa sua parabola discendente, comunque è il primo dopo i marziani, anche il quarto posto di oggi a Silverstone è un signor risultato, ci sono piloti che non ci arrivano, c'è la Ducati che fa fatica, Dovizioso fa fatica, bisogna avere rispetto e dire anche, avere il coraggio di dire che in questo momento gli altri però stanno facendo un altro sport, o no? Sì, sì, sì, veramente. Quindi onore a questo grande marchigiano, ma anche dire che purtroppo nella evoluzione tecnologica della Ducati anche Hayden è nella parabola discendente di questi anni precedenti, per cui la limitazione tecnologica potrebbe derivare da entrambi i piloti. Certamente, grazie Carlo. Grazie a voi. Grazie Carlo, grazie Carlo da Modena. 800 24 00 24, vi avevamo promesso l'aggiornamento sulle vicende relative a Kakà e al Milan. Adriano Gagliani è a Madrid, è arrivato intorno alle 13:30, ha già avuto un primo contatto con i dirigenti del Real Madrid e in particolare con il direttore sportivo Miguel Ángel Sánchez, non ha ancora parlato con Florentino Perez, è previsto però un incontro questa sera a cena e questo rende impossibile la suggestione che in queste ore aveva preso piede, e cioè di un arrivo a San Siro per Milan-Cagliari di Kakà per salutare il suo vecchio nuovo pubblico. La trattativa andrà per le lunghe, secondo me si risolverà soltanto nella giornata di domani. 800 24 00 24, saluto il collega amico Guido Vaciago di Tutto Sport. Ciao Guido. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Mi sembra che la Juventus non abbia problemi come quelli del Milan, non stia vivendo queste ore frenetiche inseguendo, penso, più un sogno, un nome, una suggestione che un vero e proprio rinforzo. Volevo capire da te intanto qual è il riscontro che avete su questo giro che potrebbe portare invece Gilardino da Conte e portare Quagliarella alla Roma. È una suggestione, per usare un termine che stavi usando tu, ha qualcosa di concreto, ma per il momento io credo che se ne stiano parlando, stiano facendo delle valutazioni, ci sono tante cose, sono quegli scambi che sulla carta sembrano semplici, poi vai a verificare sul campo tutto quello che comporta fare uno scambio di questo genere, cioè mettere d'accordo tante parti e ti rendi conto che poi ci sono degli ingaggi che magari non tornano, dei giocatori che magari non vogliono cambiare maglia. Nella fattispecie io non so poi quanto Quagliarella sia così intenzionato a lasciare la Juventus, per quanto a Roma troverebbe sicuramente più spazio. Io credo che sia un'operazione che forse poteva partire qualche giorno, se fosse partita qualche giorno fa avrebbe avuto più possibilità di chiudersi. Adesso si tratterebbe veramente di fare una corsa contro il tempo nelle prossime 48 ore. Non è detto che... Sì, c'è il vantaggio che due di questi tre giocatori hanno lo stesso procuratore, che è un uomo di grandissima esperienza come l'avvocato Bozzo, capace anche di chiudere in fretta trattative complicate. Mi viene in mente lo scambio Pazzini-Cassano un anno fa tra Milan e Inter. Uno dei più bravi a fare questo tipo di operazione, che poi alla fine riesce sempre ad accontentare tutti. Dal punto di vista prettamente tecnico, ecco, come la prenderebbe Conte? Io credo non malissimo. Non è un mistero che Conte non vede benissimo Quagliarella. Poi le leggende di malumori o di addirittura antipatie, quelle sono leggende, però che comunque sia un giocatore che lui, tra tutti gli attaccanti che ha utilizzato un po' meno rispetto ad altri, questo è una cosa da almanacco. Io credo che in questo momento lui abbia bisogno di un centravanti più classico, come peraltro è Gilardino, per avere un'alternativa agli Llorente, perché lui in questo momento sta giocando con Vucinic e Tevez, una coppia che, vedendo i riscontri anche di gol, soprattutto quando giocano contro la Lazio, non è male, perché effettivamente si trovano ed è una coppia estremamente tecnica, estremamente imprevedibile per le difese avversarie. Però in attesa che Llorente trovi la condizione, si inserisca nei meccanismi di gioco di Conte, con la cessione di Matri alla Juventus manca un centravanti puro, e Gilardino in questo senso potrebbe andare proprio a occupare quella posizione. Quindi dal punto di vista tecnico probabilmente è un'operazione che ci sta, è un'operazione che potrebbe accontentare tutte le squadre. Gilardino è un giocatore di grande esperienza, un giocatore che ha disputato la Champions League, che ha vinto un mondiale, che è ancora nel giro della nazionale. Sì, che tra l'altro ha ancora la speranza di giocarsi il mondiale. Abbiamo letto questa mattina sui giornali, sarà certamente nel listone di Prandelli per la doppia sfida contro Bulgaria e Repubblica Ceca. C'era questa ipotesi di convocare Toni, perché contro la Bulgaria a Palermo venerdì mancano Balotelli e Osvaldo, che sono squalificati. Invece par di capire che Prandelli si affiderà come titolare proprio a Gilardino, che ha ancora in mano una chance importante, e anche per questo io non so quanta voglia abbia di andare a giocarsi delle rotazioni in cui penso fatalmente finirà per avere poco spazio, per essere una riserva. Prandelli lo ha detto, in Brasile va chi gioca. Però questa è la suggestione di queste ore. Guido, volevo chiederti invece se la vittoria sulla Lazio di ieri ha chiuso definitivamente il capitolo del mal di pancia di Conte. A me ieri sera Conte è sembrato un filino imbarazzato quando siete tornati voi colleghi sulla vicenda delle sue parole della vigilia. Mi pare del tutto evidente che non può essere tutta colpa dei giornalisti, come ha detto ieri in conferenza stampa. Mi sembra anche che la risposta di Marotta, al di là dei sorrisi, sia stata una risposta abbastanza decisa, cioè questa Juventus è migliorata, la società ha diritto di provare a tenere in equilibrio i conti. Sì, io guarda, credo che sulle parole di Conte bisogna fare due ragionamenti. Il primo è il fatto che Conte debba tenere in maniera notevole la squadra sotto pressione. È un suo metodo, è un metodo che lui porta all'esasperazione, ed è un metodo per applicare il quale lui usa molto i media e usa molto le conferenze. Lui a volte in conferenza parla al pubblico, parla ai giornalisti presenti, ma parla soprattutto ai tifosi. Parla soprattutto ai giocatori, parla ai tifosi che lo ascoltano, ma parla soprattutto ai giocatori, manda dei messaggi indiretti ai giocatori, messaggi che poi magari lui viene in qualche modo approfondisce all'interno dello spogliatoio, nel chiuso dello spogliatoio. Ma lui cerca di tenere sempre la tensione molto alta, perché lui sa che la squadra che ha lui, il tipo di gioco che lui ha impostato, il tipo di squadra che lui ha costruito, è una squadra che deve tenere sempre la tensione altissima. È bastato ieri che la tensione calasse un attimo e la Lazio è diventata subito pericolosa, sembrava che la partita si riaprisse. È bastato che la Juventus rischiacciasse l'acceleratore e la partita è stata chiusa. Sì, perché riemergessero le differenze. Esatto. Io quindi credo che da questo punto di vista le parole di Conte vadano sempre comunque considerate con questo tipo di contestualizzate. Un po' come quando si parlava di Mourinho, dei suoi giochi psicologici interni ed esterni, con messaggi per lo spogliatoio, per l'ambiente intorno, per gli avversari. Esattamente. Però detto questo, Guido, venerdì Conte si è andato anche un po' oltre. Ecco, a me non è piaciuto. Venerdì lui abbia mandato dei messaggi. Poi piaciuto o non piaciuto dipende dai punti di vista. Diciamo che lui forse lì ha mandato dei messaggi non soltanto allo spogliatoio, ma ha mandato anche dei messaggi alla società. Messaggi che a sentire Marotta ieri non sono piaciuti tantissimo. Certo che una situazione di questo genere, quando poi il giorno dopo arriva un 4-1 e viene tra l'altro in maniera piuttosto spettacolare, con la squadra che ha vinto le prime tre partite ufficiali su tre, e che comunque sembra anche ben avviata a smaltire i carichi di lavoro, quindi a diventare sempre più brillante, io credo che poi queste parole finiranno per essere in qualche modo smorzate, si sfumino nelle vittorie. Magari ne riparleremo fra un po'. Ne riparleremo fra qualche settimana. O forse fra qualche mese, vediamo. Vediamo come va la stagione. Sì. Però queste parole, questa conferenza potrebbero aver segnato un punto che magari poi non ci ricorderemo più e non ne parleremo. Invece magari potremmo dire tutto iniziò in quella vigilia di Juve-Lazio. Sì, potrà essere la prima pietra miliare di questa stagione, di quel lungo discorso che secondo me a maggio dovremo affrontare, anche se c'è il contratto rinnovato, l'aumento di stipendio e tutto, e che è il ragionamento sul futuro di Antonio Conte. Grazie a Guido Vaciago. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a Guido Vaciago, collega di Tutto Sport. C'è il traffico. So che è una situazione che bisogna accettare, l'accettiamo, però se mi dite hai avallato tecnicamente alcune cose, io non ho avallato assolutamente niente, ho subito ed è giusto che un allenatore in una situazione del genere debba anche andare incontro alla società. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta in questa domenica che vive nell'attesa di un mercato che chiude domani alle 23, nell'attesa di capire se Kakà torna al Milan, nell'attesa dei verdetti della seconda giornata di Serie A, e guai a prenderla alla leggera perché siamo solo al primo settembre e c'è già chi la vive questa attesa sull'orlo di una crisi di nervi. Ma ormai è un paio d'anni, ora magari stasera deciderò, se magari domattina darò le dimissioni e quindi visto che ho finito l'annata e l'anno scorso vedremo. E come dare torto a Max Allegri che ha lavorato per 2 mesi su un Milan finto e adesso lo deve riscrivere, magari a marzo dovrà rivoluzionarlo ancora, se davvero l'unico modo di arrivare a Kakà e prenderlo in leasing con gli americani è il cuore, al cuore non si comanda perché Kakà torna a casa dove Berlusconi l'ha sempre trattato così. Il Milan di oggi si riconosce in lui come uomo simbolo, con il suo essere uomo straordinario, non soltanto tutte le nostre tifose rossonere sono innamorate di lui, ma anche gli uomini, perché sanno che da un ragazzo del genere si possono aspettare soltanto cose buone. Basta che non si dica che se torna torna per amore o che si dimezza lo stipendio, perché Kakà i suoi soldi li vuole tutti fino all'ultimo euro, e se permettete, per me è una follia per un quasi pensionato. Noi comunque con l'uscita di Mate e Giaccherini ci siamo indeboliti, so che è una situazione che bisogna accettare, l'accettiamo, però se mi dite hai avallato tecnicamente alcune cose, io non ho avallato assolutamente niente. Allenatori sull'orlo di una crisi di nervi, anche un po' fuori misura come Conte, lo avete sentito prima di Juventus-Lazio, storie di cessioni subite o avallate, alla Juventus se la sono anche un po' presa, Conte poi ha detto che è tutta colpa dei giornalisti o degli ex colleghi o di critiche ingenerose, insomma sempre colpa degli altri o forse no, per questi allenatori sull'orlo di una crisi di nervi, anche se è solo il primo settembre, ma sarà davvero così? L'ho detto ai miei amici. Se all'età di 60-65, quando smetterò di allenare, spero di arrivarci perché magari smetterò anche un po' prima, come vado a dire certe robe, chiamatemi un dottore bravo, che forse è meglio. Preferisco magari verso quell'età lì andarmene al mare, magari su un gommone. Buon pomeriggio a Serse Cosmi. Buon pomeriggio. C'è già un eccesso di stress, di testosterone, non so come vogliamo definirlo, in giro per le panchine italiane, tutto normale? Ma tutto normale no, però tutto in linea con quello che più o meno sta diventando il calcio, insomma, voglio dire, prima è tutto molto più centrifugato, quindi di conseguenza si pretende tutto subito, quindi le interviste di metà stagione diventano interviste di inizio stagione. Sì, secondo me è anche colpa di questo mercato infinito, quest'anno addirittura si è fagocitato le prime 2 giornate decisamente troppo. No, ma questa è una mia non battaglia, perché ormai ho smesso abbondantemente di farle, però una mia considerazione che ho fatto sempre da tempo, voi ditemi che differenza c'è finire il mercato prima che iniziasse il campionato piuttosto che fare le prime 2 giornate che diventano 2 giornate atipiche, perché squadre vengono se non rivoluzionate completamente cambiate, 2 partite comunque di un campionato se ne vanno e sono sempre 6 punti che hai o che non hai che possono incidere su quello che è il destino futuro. La stessa cosa riguardo la sessione invernale, quando c'è una sosta per poter fare tutto, diciamo, un mercato, e inevitabilmente poi finisce quando è già riniziato, insomma. Queste sono, non dico le follie, però sono secondo me delle contraddizioni, che dietro ci saranno ovviamente i soliti motivi, però sicuramente portano, non dico gli allenatori, ma anche gli stessi giocatori a vivere certi momenti con grande difficoltà. Fosse oggi Allegri, Serse, lei direbbe le stesse cose di Kakà, e cioè che serve al Milan, che non ha timori sulle condizioni fisiche, che farà fare il salto di qualità alla squadra, oppure ha qualche dubbio in più? No, adesso diventa difficile fare le considerazioni su altre considerazioni, perché ognuno le vive e vi assicuro le dire. E allora di Kakà, seguendo... di Kakà che cosa pensa Serse Cosmi? Ma di Kakà conservo un ottimo ricordo. Del basta, tempo che fu. Insomma. Voglio dire, poi secondo me è un giocatore che si è imposto nel Milan vincendo il pallone d'oro e alla grande, essendo, come diceva Berlusconi prima, un simbolo di quel Milan. Io magari aggiungo uno dei simboli, perché con tutto il rispetto credo che Maldini lo era 10 volte più di lui, insomma, come simbolo. Però detto questo, uno che si afferma nel Milan a quei livelli deve avere la capacità e la forza di affermarsi anche nel Real Madrid. E invece non l'ha fatto con nessuno, non l'ha fatto con Mourinho, non l'ha fatto prima, non l'ha fatto con chi c'era prima, non l'ha fatto nemmeno con Ancelotti, perché il Real è andato a prendersi comunque Isco, gli ha chiuso tutti gli spazi, evidentemente anche Ancelotti, che pure lo conosceva bene, ha deciso che in questo Kakà non si poteva credere. Sì, appunto, no? Dicevo, le difficoltà l'ha avuta, è anche vero che ritorna in un campionato che è sicuramente diverso da quello che ha lasciato, molto più indebolito, insomma, per valori. E quindi basta anche un Kakà non al 100% come quando è partito, per poter essere protagonista, almeno l'auguro al Milan, però sulla sua carriera, diciamo così, si deve fare riferimento a quegli anni al Milan, ma anche a quegli anni al Real Madrid, insomma. A proposito di squadre più o meno indebolite, la Juventus le è parsa indebolita, come ha detto Conte? Ma guardi, qui secondo me ci sono tutte strategie dialettiche, insomma, almeno penso, insomma. È normale che la Juventus si sente addosso, al di là di quello che dice, l'obbligo di vincere, perché tutti dicono la Juve deve sempre vincere, poi quando te lo ripetono in maniera ossessiva te ne compiaci, però nello stesso tempo fa in maniera tale che, insomma, non diventi proprio una pressione esasperata. Quindi Conte, secondo me, ha voluto far capire che anche altre squadre si erano rinforzate, credo che sia soprattutto quello il concetto. Questa sì. È la sua considerazione. La mia, o almeno quello che io penso, la mia considerazione è che la Juve non sia indebolita. No, decisamente. Indebolirsi perché hai scambiato Matri con Tevez è, dal punto di vista calcistico, una bestemmia. Anche del Tevez, visto in questo inizio di stagione. Che... No, io concordo, diciamo così, con quello che ha detto Conte. Noi ha detto ci siamo privati di un giocatore che è stato fondamentale nello spogliatoio, è stato fondamentale anche in campo quando è stato chiamato, perché comunque non dimentichiamo che Matri ha fatto dei gol decisivi. Quindi a volte è chiaro, uno guarda il valore in sé, intrinseco dei due giocatori, tecnicamente, a parte che sono molto diversi, si può pensare che la Juve ci abbia guadagnato. Però è anche giusto tenere in considerazione quello che dice un allenatore, perché fa riferimento ad altri valori che solo lui conosce. Per chiudere, Serse Cosmi, a proposito di paragoni, il mio pensiero è che il Napoli ci abbia guadagnato o ci guadagnerà alla fine nel cambio fra Higuain e Cavani, perché Higuain è un giocatore che in Italia fa la differenza, io sono sicuro la farà non soltanto nel numero dei gol. Ieri a Verona è stato protagonista di una partita strepitosa, anche per movimenti, assist, capacità di creare spazi. Ma guarda, io non la penso esattamente così, o meglio, Higuain è un grande giocatore, su quello non c'è dubbio, però che oggi noi pensiamo che Cavani abbia fatto 3 stagioni normali, significa che siamo tutti impazziti. Cavani è un fenomeno, però Cavani, mi sembra che il Napoli sia caduto bene. Cavani, voglio dire, faceva quello che ha fatto Higuain e anche di più, come caratteristiche. Non è che ha perso un giocatore che speculava, diciamo così, sul gioco del Napoli, ha perso un giocatore che dava tutto in campo. Quindi io credo che comunque sono due giocatori diversi. È interessante invece il sistema di gioco, che è completamente cambiato, e la maniera di attaccare la porta con certi giocatori piuttosto che non altro. E io aggiungo una cosa, Higuain sarà fondamentale, però in questi 3 anni io credo che il giocatore fondamentale sia stato Hamsik, come nella Juve il giocatore fondamentale Vidal, che non a caso è quello che non è partito. Attaccanti ti aspetti un numero di gol, se sono 20, 18, 15 o 14 va bene lo stesso, ma quante squadre hanno i centrocampisti che vanno sopra 10 gol? Nessuno, solo la Juve e il Napoli. E quindi io credo che i veri protagonisti, o meglio, i giocatori veramente decisivi, rimangono nelle due squadre, Vidal e Hamsik. Grazie Serse Cosmi. Arrivederci. Grazie Serse Cosmi, noi dobbiamo fermarci, è la domenica di Kakà, della grande attesa di Kakà, adesso c'è il GR, poi torniamo. Poi Messi fermato da Kakà, che può accelerare in campo aperto, è il suo marchio di fabbrica, Kakà coast to coast, davanti da Bonansieri, tocco corto, 3-0! 70 metri di campo, palla al piede, Messi non riesce a reggere il confronto, Milito è superato, tocco morbido, 3-0, favoloso! Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Intanto io ringrazio Giorgio De Luca, la mia guida dietro il vetro, insieme a Paolo Corleone e Pietro Lacorte, che si alternano in regia. Quinto minuto all'Olimpico, ancora 0-0 tra Roma e Verona. Roma vicinissima al vantaggio con Florenzi, che si è mangiato un gol davanti al portiere. Ripercorriamo però i titoli di questa domenica 1 settembre. È la missione del Milan a Madrid per riportare a casa Kakà. Questa sera cena l'incontro tra Galliani e i vertici del Real. C'è l'ipotesi di un accordo fino a marzo per poi lasciare andare il brasiliano negli Stati Uniti. E c'è anche un giallo che proveremo a chiarire per la presenza del fondo della Doyen Sports a Madrid. E poi Juventus contro Napoli, duello totale dal campo, dove le due sono già in testa, punteggio pieno alle parole. Benitez contro Conte, lo spagnolo dà del furbo allo juventino che risponde, solo lui ha potuto spendere 37 milioni di euro per un giocatore. E infine questa sera le trappole per tutti, rischiano Allegri, Mazzarri, Montella, lo abbiamo detto, c'è la Roma in campo, c'è la testa soprattutto al mercato, con questo clamoroso valzer di attaccanti, o forse è solo una suggestione, Gilardino alla Juventus, Quagliarella alla Roma, Borriello al Genoa, e poi c'è Viviano che va all'Arsenal e Barrientos che va in Qatar. Insomma, una domenica provando anche a capire che cosa accadrà domani nell'ultimo giorno di mercato. Tutti convocati. Domenica, insomma, ricchissima. Noi andremo avanti fino alle 19, 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Vi annuncio che avremo ospite anche un grandissimo della nostra pallacanestro come Gigi Datome, perché fra tre giorni scatta l'Europeo in Slovenia. E l'Italia ci va con speranze limitate causa infortuni. Ne parleremo con Gigi Datome. Invece io ringrazio e saluto Giuseppe Sannino, allenatore del Chievo. Buon pomeriggio mister. Buonasera a tutti. Ha visto i temi di questa domenica, parliamo di questo duello tra Juventus e Napoli. Lei ieri il Napoli l'ha visto da vicino, è d'accordo con noi? Abbiamo parlato per settimane delle sette sorelle. La verità è che questo sarà un campionato probabilmente che si risolverà in un duello tra Juventus e Napoli? Credo che sono partite tutte le squadre con appunto questo intento di contendersi lo scudetto, anche se secondo me bisognerebbe allargare un po' il discorso anche a altre due squadre. Lei crede ancora nel Milan, nella Fiorentina, nella Roma? La Fiorentina si è attrezzata per fare un salto di qualità rispetto all'anno scorso. Il Milan, anche se è partito con un passo falso, credo che poi alla fine riuscirà ad aggiustare verso il mercato quello che gli mancherà. C'è un Inter da scoprire, la Roma con Garcia credo che sia preso col piede giusto, è un nostro campionato che è difficile, sicuramente queste squadre, sicuramente con la Juve e il Napoli un gradino più in su, possono davvero battagliare fino alla fine. Il Napoli che ha visto ieri è una squadra da scudetto, me lo conferma. Il Chievo mi sembra che abbia fatto una buona partita, in fondo ha fatto la partita che può fare contro una squadra evidentemente superiore con il Napoli. A me ha impressionato però nel secondo tempo la facilità con cui il Napoli è uscito da una trappola, che è storicamente la partita di Verona. Io rivedendo la partita stamani devo dire che il Chievo ha fatto per 70 minuti una grandissima partita, ha cercato di limitare le giocate del Napoli, abbiamo controbattuto colpo su colpo, sono andati due volte sotto, abbiamo rimediato sicuramente la qualità, ma sentendo le vostre anteprime prima per un giocatore di 37 milioni di euro, questa la dice lunga. Ci sono dei campioni, c'è un gap tecnico tra noi e loro elevato, però devo dire che il Napoli mi ha impressionato più che altro per il singolo, soprattutto anche per il modo, la facilità in cui si cercano e si trovano. Rispetto all'anno scorso è sicuramente un Napoli cambiato, però credo che la favola del Napoli parte da lontano. Mazzarri ha fatto un grandissimo lavoro per arrivare a portare questa squadra in Europa. Benitez, con il suo modo di interpretare il calcio, può darsi che alla fine riesca a suggellare quello che tutti gli augurano. Sì, credo che qualche problema visto ieri in difesa possa anche essere considerato un problema di crescita. In fondo il Napoli ha cambiato molto come giocatori, ha cambiato completamente il modulo di gioco in campo, sì. E quindi si può anche pensare che ci sia qualche passaggio a vuoto dietro. Parlando del Chievo, a proposito di passaggi a vuoto dietro, a me ieri sera ha davvero impressionato Paloschi. Davo un'occhiata alle sue cifre, ho l'impressione che noi ci siamo abituati a parlare e a pensare a Paloschi come un ragazzo che oramai ha dato, in realtà è un ragazzo del 90, che ha ancora dei margini di crescita. Alberto è un ragazzo straordinario, ma perché interpreta il ruolo con lo spirito del calcio moderno. Non è un giocatore che pensa solo a fare gol, ma lavora tanto per la squadra. E ieri ho visto, anche facendo un paragone, lo stesso Higuaín. Io mi aspettavo un giocatore che era prettamente portato alla fase offensiva, ma invece ho visto rincorrere gli avversari fino a metà campo, fino quasi alla nostra area, ma Paloschi è un ragazzo che ha questa tempra, ha queste caratteristiche. È un ragazzo che, se andiamo a vedere le partite giocate col Fatti, credo che sia un ragazzo da seguire anche in futuro. Sì, parlavamo prima con Serse Cosmi di Higuaín. Io ho detto, secondo me a fine stagione il Napoli si accorgerà di averci anche guadagnato, volendo essere provocatori, nel cambio tra Cavani e Higuaín. Sono stato squalificato da Serse Cosmi, che non è dello stesso parere. A me Higuaín fa impazzire, sì. E non solo per il numero di gol che farà, perché alla fine saranno tanti. Sono due grandissimi campioni in uno spartito un po' diverso, credo. Però Cavani si è dimostrato e ha dimostrato in Italia quello che è stato capace di fare, ed è stato un giocatore quasi unico per le sue caratteristiche. E Higuaín ha tutti i crismi per farci vedere quest'anno che il Napoli ha trovato un nuovo grandissimo giocatore, come ho detto prima, però in un contesto un po' diverso, dove il possesso palla fa da padrona rispetto alla ripartenza dell'anno scorso. Tornando al suo Chievo, un punto tra Parma in trasferta e Napoli, secondo me lei arriva alla sosta con il numero di punti attesi, con un bilancio più che discreto per il tipo di partenza che aveva il Chievo. Io sono una persona molto pratica, vado sempre al concreto, e secondo me è importante cercare di fare punti contro chiunque. Le tabelle non mi piacciono, io sono felicissimo di quello che hanno fatto fino a 70 minuti di ieri della partita contro il Napoli, la mia squadra. Sicuramente noi non siamo una squadra che deve puntare a vincere un qualcosa di importante, se non il nostro scudetto, che è la salvezza. Questo passa attraverso anche partite come ieri, e mi auguro che il tempo ci possa dare la giusta risposta alla strada intrapresa. Io credo solo con il lavoro è quello che abbiamo in testa di poter fare contro chiunque. Mi auguro che alla fine ci possa far sorridere, arrivando a una salvezza sicuramente che c'è da soffrire, ma speriamo di poterla prendere un pochettino prima della fine. Atalanta-Torino, Bologna-Sampdoria, Catania-Inter, Genoa-Fiorentina, Milan-Cagliari, Sassuolo-Torino, Udinese-Parma è il programma di questa sera 20:45. Giuseppe Sannino, su cosa si concentra? Se si concentra su, ma credo, sulle partite. Le guardo un po' tutte, però mi piace intanto vedere la Fiorentina che va a Genoa, perché è anche giusto guardare le squadre che poi dopo faranno un prodotto con noi, e anche la Fiorentina giocare fuori casa. Vedrò anche l'Inter Catania, c'è Udinese Parma anche, che è un'altra partita, perché poi dopo ci proietta vicino, giocheremo tra due domeniche contro l'Udinese alla quarta giornata. Sono tutte partite secondo me che lasciano il pronostico aperto. Intanto seguiamo Roma-Verona. Sì, Roma-Verona. 14esimo 0-0. Buona Roma in questi primi 14 minuti. Grazie a mister Sannino. Ringrazio voi e un saluto a tutti. Grazie a mister Sannino. Il suo Chievo lo abbiamo visto ieri sera contro il Napoli. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Poi ripartiamo. Roberto da Milano, Salvatore dalla provincia di Verona, Eugenio ancora da Milano. Adesso c'è il traffico. Largo per Seedorf, va subito nella sovrapposizione Jankulowski, dentro per Kakà che accelera, Kakà in area di rigore, palo sul sinistro, rete, rete, rete, Kakà il timbro del fuoriclasse. Tutti convocati. Roberto da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a lei, Giovanni Copano. Innanzitutto, complimenti per la trasmissione e la seguo sempre con attenzione. Grazie, prego. La domanda era questa, due o tre domande veloci. Ahimè, adesso sembra che sia fatto che arrivi Riccardo Kakà, no? Sì, non la vedo soddisfattissima. No, no. Io appunto avrei puntato, certo, ormai le cose sono fatte, su Diamanti ad esempio, anche perché uno che batte bene punizione, e poi al di dietro dicevo Astori, un altro, oppure pescare in Serie B. E poi riguardo appunto il centrocampo, l'ho detto, non per niente ha detto bene, seguivo prima con Bebe Sannino, questo ha detto Paloschi. Sì, anche se Paloschi, bisogna poi anche stare attenti, è un giovane, si sta confermando qualità che avevamo già visto, però poi un conto è giocare da titolare nel Chievo, un conto è dover entrare e fare la differenza in squadre come il Milan, non è facile. Non è detto che Paloschi sia un giocatore che possa stare su quei palcoscenici. Ieri sera sentivo i commentatori di Sky, correttamente, non ha ancora fatto una stagione da 15 gol, deve farla secondo me prima di tornare a San Siro o comunque in una grande squadra. Su Kakà io ho detto, trovo soprattutto irrispettoso, al di là della scelta di Kakà, che Allegri si veda recapitare un trequartista con la conferma dell'ordine di cambiare gioco. Questo Milan era disegnato, e ce lo hanno raccontato per settimane, per fare il 4-3-3. Mi incuriosisce ad esempio capire quale sarà il futuro di El Shaarawy con il trequartista. El Shaarawy, che lo ha detto, fa fatica da seconda punta e che certamente è un valore aggiunto di questo Milan. Salvatore dalla provincia di Verona, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Abbassi la radio, anzi la spenga, prego. Volevo solo dire questo, che sia l'anno giusto per il Napoli, per qualche considerazione. Sì, indubbiamente Cavani era Cavani, diciamo, però Ivain penso che lo sostituirà bene. Considerazione della partita col Chievo: mentre le papere una volta costavano caro, alla fine ho avuto l'impressione che questo Napoli dicesse va bene, noi la condurremo noi la partita, quando è il momento faremo i gol, insomma. Non ha avuto questa impressione? Sì, io ho avuto l'impressione, e mi è piaciuto tantissimo la facilità, la maturità con cui nell'ultima mezz'ora il Napoli è venuto fuori da una situazione che si era anche complicata. Poi però, e lo ha detto Benitez, dietro bisogna mettere mano a evitare che ci siano gli errori di ieri, perché regalare due gol in altre situazioni può essere un peccato mortale, ti può andare bene contro il Chievo. Non oso pensare cosa possa capitare ad esempio a Firenze, a Roma, a Milano, per non parlare di Torino. Però detto questo, sono peccati di gioventù del Napoli, ne abbiamo parlato con Serse Cosmi, con Sannino, sta cambiando pelle, sono peccati che si possono perdonare. Mi sembra che la qualità del gioco davanti sia eccellente, ad esempio che Benitez abbia scommesso su Callejon, che era un giocatore che in Italia conoscevamo poco e che fin qui si sta rivelando una scommessa vincente. Eugenio da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Niente, io chiamo senza nessuna pretesa tecnica, proprio da tifoso del Milan per la questione Kakà, perché io ho quella magliettina che comprai prima dei gloriosi anni in Champions, con gli occhiettini da diabolica, e mi ricordo quel Kakà e mi ricordo anche di quando dovevamo cederlo e tutte le manifestazioni sotto casa sua con quella che poi si è rivelata una manfrina, che non doveva, insomma, che sarebbe rimasta, eccetera, e poi l'abbiamo ceduto a molto meno del suo valore. E sono esterrefatto dall'idea di riprenderlo, cioè è una follia di dimensioni atomiche per quanto mi riguarda, cioè tutti errori strategici che poi, per carità, potrebbe essere una scelta, diciamo, di tipo, tra virgolette, fiscale, tutte le necessità economiche, i giri, eccetera. Però se è così, spero che Kakà almeno non si presenti mai in campo, mai in allenamento, appunto per evitare di dare fastidio, perché ha un peso mediatico spaventoso, però non è un giocatore in fase di declino, è un giocatore finito per quanto mi riguarda. Non so perché, ma ho l'impressione che se questo affare verrà chiuso nelle prossime ore, che Kaká si presenterà e avrà anche un ruolo importante nel Milan di Allegri. Cosa ne pensi, Carlo Laudisa, collega della Gazzetta, numero uno del mercato? Ciao Carlo. Ciao, buonasera a tutti. Io adesso, mentre sentivo la vostra conversazione, salto su un nome altrettanto grande, quello di Samuel Eto'o. Le scorse settimane l'Inter ha accarezzato l'idea di portare il camerunese nerazzurro e si era aperto un dibattito simile nel popolo interista. Però io credo che giocatori di questa levatura, credo che ieri nella conferenza stampa Allegri l'abbia presentata in una maniera giusta, cioè Kakà, io ho la sensazione che in questi anni abbia pagato sicuramente all'inizio il suo stato fisico deficitario, però negli ultimi mesi non è stato così. Negli ultimi mesi ha sofferto più che altro la fine di un ciclo in casa madridista, che evidentemente adesso riluce dell'arrivo di Bale, ma anche della frenesia di giovani talenti. Purtroppo il calcio italiano non può permettersi investimenti così onerosi per avere delle stelle in ascesa. Quindi io ho la possibilità che Kakà invece in questa stagione che porta al Mondiale, in cui lui ha l'occasione unica e irripetibile di guadagnarsi un posto nella nazionale di Scolari nel Mondiale che si gioca in casa, credo che darà tutto quello che ha per provare a guadagnarsi la convocazione. Poi i tifosi del Milan 349-238-6666 si interrogano eventualmente quale sia il senso di prenderlo per poi lasciarlo andare a marzo negli Stati Uniti, ma questo ho l'impressione che sia un capitolo ancora tutto da scrivere. Mi interessa invece capire in Gazzetta che riscontri avete su quest'idea di questo triangolo: Girardino alla Juventus, Borriello al Genoa, Quagliarella alla Roma. No, sono riscontri che ancora credo che verranno fatti a fine partite, questa sera tardi, perché il problema economico riguarda soprattutto la Roma e il Genoa, la Juve alla finestra, perché Quagliarella vuole andare via, ma se non ci sono i presupposti economici questa idea può nascere e può morire come appena nata. Quindi è una situazione su cui porre attenzione, ma che in questo momento è solo in embrione. Sì, soprattutto Borriello ha uno stipendio da 4 milioni sì. E passa netti, bonus compresi, difficile pensare che mentre il Genoa se lo possa accollare. Il Genoa guadagna 1,8 e Quagliarella 2,8. Sì, non è un incastro semplicissimo. Ci chiedono degli amici al 349-238-6666 se domani, ultime ore di mercato che chiude, lo ricordiamo, alle ore 23, ci si debba attendere Kakà a parte qualche colpo a sorpresa come è stato negli ultimi anni. Io ho l'impressione che Kakà a parte non ci saranno fuochi d'artificio. No, soprattutto per le grandi squadre no, certamente ci sarà molto fermento, addirittura credo che alla Rotel domani ci sia un overbooking, ma la quantità certamente non può portare alla qualità dei nomi, quindi la frenesia sicuramente la vivremo domani, vedremo quali titoli porterà da prima pagina. Certo Kakà tiene benissimo, anche perché fa discutere, come abbiamo appena detto, e vedremo, non so. Sì, su Kakà camperemo sempre per settimane, su Kakà al Milan. Ci marceremo tutti legittimamente. Mi incuriosisce ad esempio capire se la Fiorentina prenderà o no un portiere al di là delle certezze granitiche della Valle su Neto. E anche oggi pomeriggio da sponda autorevole Viola è stata confermata la fiducia a Neto, e quindi questo ci impedisce di pensare ad altro, nonostante proprio in queste ore all'Arsenal si è sistemato Viviano, quindi Giulio Cesar vede chiusa anche l'ultima sponda che aveva in Premier League, quindi al momento rimane a QPR nella seconda divisione inglese, e questo lascerebbe anche la possibilità di tentare una sminute clamorosa. Sì, a proposito di giocatori che non rinunciano a un euro o quasi, io trovo misteriosa la parabola estiva di Giulio Cesar. A un anno dal mondiale mi sembra che potesse serenamente rinunciare a qualcosa pur di andarsi a giocare le sue chance, la sua convocazione quasi sicura in un campionato competitivo che non è certamente la Championship inglese. Per chiudere, Carlo Laudisa, arriva qualcuno alla Juventus? I messaggi di Conte in qualche modo hanno fatto breccia, oppure la Juventus si ferma lì e al massimo c'è questo scambio di attaccanti? Sì, perché la pista di sul Nainggolan credo che sia stata comunque fermata dalla rigidità di Cellino, che non vuol cedere i suoi talenti. È impossibile da mettere in piedi in qualche ora. No, semmai vediamo se accade qualcosa su Astori. Io credo che se a Cagliari parte uno può essere solo Astori. Certo, grazie a Carlo Laudisa. Un saluto a tutti. Grazie a Carlo Laudisa, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport. A proposito di mercato, le abbiamo ricordate le parole di Allegri su Kakà. Torniamo a sentirle, perché poi di Kakà torneremo a parlare dopo la pausa per la pubblicità, perché c'è questo mistero, questo giallo della presenza del fondo brasiliano della Doyen Sport a Madrid insieme a Gagliani, che è andato a Madrid per parlare di Kakà con il Real Madrid. Sentiamo che cosa ne diceva ieri Allegri. È un giocatore che ci servirebbe, ho visto un po' di partite, sta discretamente bene, un giocatore che purtroppo negli ultimi due anni ha giocato poco. Ripeto, avere dei campioni di squadra è sempre bello per un allenatore, sia a livello tecnico e a livello di gestione. Darebbe un grande entusiasmo ai tifosi, all'ambiente, aumenterebbe l'autostima sicuramente della squadra, come fanno tutte le squadre quando hanno i campioni dentro, e quindi staremo a vedere. Tutti convocati. Mezz'ora a Roma, 0-0 tra Roma e Verona, partita che si è fatta più equilibrata, anche se c'è la Roma che continua ad attaccare, Roma che sta giocando con il tridente Florenzi, Totti, Gervinho, c'è in panchina Borriello che è al centro dell'ultima voce di mercato. Ne abbiamo parlato, Borriello che potrebbe finire al Genoa e potrebbe liberare così Gilardino per la Juventus e Quagliarella per la Roma. Intanto aggiornamenti ancora da Madrid, dove il Milan sta iniziando a dialogare con il Real per capire a che condizioni si può liberare Kakà, anche se evidentemente la difficoltà non è tanto legata al prezzo del cartellino quanto all'ingaggio che Kakà deve ancora percepire dagli spagnoli. Stiamo parlando in due stagioni di 20 milioni netti, il brasiliano farebbe anche lo sconticino per il Milan, ma siamo comunque lontani in questo momento dalle cifre necessarie. Però torneremo a Madrid, ci torneremo col collega del Sole 24 Ore Marco Belinazzo, perché a Madrid con Gagliani c'è anche Lucas, che è il proprietario del fondo brasiliano Doyen Sport, quello per intenderci che altrove, non in Italia, perché in Italia è vietato, è proprietario di parte di cartellini e comunque appoggia le società quando fanno operazioni di mercato. Michele da Bergamo, 800 24 00 24, buon pomeriggio Michele. Buon pomeriggio, complimenti. Prego. Per la trasmissione. Io volevo dire solamente due cose. Secondo me il problema che Allegri debba ridisegnare il Milan non esiste, nel senso che negli ultimi anni Boateng ha giocato da punta esterna o anche da mezza punta. Il problema secondo me del Milan vero, reale, è quello che ha una difesa con la Broad. Secondo me si dovrebbe concentrare più sull'acquisto di un centrale proprio di valore piuttosto che sulla mezza punta. Adesso io non sto a discutere le qualità tecniche, se è finito o non è finito, però i problemi che ha il Milan sono dietro e sono grossi problemi. Sì, ma io su questo, Michele, sono d'accordo, il Milan ha dei problemi dietro, ha dei problemi probabilmente a centrocampo, però secondo me è anche un problema il modulo, perché il Milan in questi anni si è abituato a giocare senza il trequartista. Boateng non era un giocatore in grado di stare dietro le due punte e difatti anche per questo è stato ceduto, perché il Milan non aveva in casa il trequartista, ha preso un giovane di prospettiva come Saponara, che in questo momento ha dei problemi fisici e comunque è difficile affidare a un ragazzo che viene dalla Serie B una maglia pesante come la virtuale maglia numero 10 del Milan. Allegri ha reinventato il suo 4-3-3 per tutta l'estate, ha conquistato la Champions League, mi sembra che ci sia anche qualche traccia di rinascita di El Shaarawy. Beh, tutto questo oggi, primo settembre, viene cancellato perché arriva per volontà, credo, della società. Un trequartista, tra l'altro un trequartista ingombrante come Kakà. Saluto Marco Belinazzo, ciao Marco. Ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Ecco, arriva Kakà, io non riesco a capire con che formula arrivi, detto che il Milan ha un budget limitato, non dovrebbero esserci problemi di cartellino con il Real Madrid, che non vede l'ora di liberarsi dello stipendio faraonico di Kakà, però a me ha attirato molto questa notizia, e cioè che sull'aereo volato questa mattina da Linate a Madrid insieme a Galliani c'era anche Nelio Lucas, presidente della Doyen Sport, che è il fondo brasiliano che lavora molto soprattutto in Portogallo, in Spagna, oltre che nel Sud America, perché è detentore di percentuali dei cartellini dei giocatori. Ne abbiamo letto, non è l'unico fondo che fa questo tipo di operazioni però che in Italia sono vietate. E allora che ci azzecca Nelio Lucas con Galliani e con la vicenda Kakà? Beh, stiamo cercando di capirlo dal punto di vista giuridico-finanziario. Dal punto di vista politico, di politica di gestione dei club, c'è di fatto un'alleanza che il Milan sta creando con questo fondo. Nel caso dell'operazione Kakà non è semplice individuare la formula di intervento di questi fondi, che ricordiamo, l'hai detto tu, normalmente acquistano delle percentuali dei cartellini dei calciatori. Questo permette alle società di continuare a utilizzare questi calciatori, magari di farli crescere, non nel caso di Kakà, ma di acquisire liquidità. In Italia non è possibile, perché i cartellini possono essere di una sola società, anche le cosiddette comproprietà in realtà non esistono, sono semplicemente dei diritti di compartecipazione, di partecipazione di natura finanziaria, e quindi è chiaro che non potranno Milan e Doyen acquisire insieme, sia pure a titolo gratuito, il cartellino di Kakà. È chiaro che l'intervento sarà sull'ingaggio. Cioè, può esserci una riflessione invece ad esempio sulla gestione dei diritti di immagine. La Doyen ha recentemente acquisito la gestione dei diritti di immagine ad esempio di Neymar, che si è appena trasferito al Barcellona, che da questo punto di vista rappresenta un assegno circolare in giro per l'Europa. Potrebbe essere usato, io lo chiamo escamotage, ma non in senso negativo, ma proprio per la difficoltà a trovare una modalità per questo inserimento della Doyen in questo tipo di affare. Beh, Milan sta facendo da battistrada anche su questo nuovo fronte. Diciamo che potrebbe esserci una forma di finanziamento atipico, nel senso che non proviene da un istituto di credito, ma bensì appunto da un fondo di investimento, una forma di finanziamento e di sostegno economico al Milan nel pagare l'ingaggio di Kakà. Vedremo di quanto Kakà si ridurrà, il faraonico ingaggio da 10 milioni, che lira più lira meno, per parlare con i termini del vecchio CONI, ma insomma più o meno fanno circa 20 milioni, farebbero circa 20 milioni per il Milan, e chiaramente Kakà dovrà ridurselo drasticamente questo ingaggio. Potrà intervenire, ripeto, anche il Doyen. Sulla possibilità poi che questo fondo possa ottenere utili e profitti da questa operazione Kakà, aggiungerei, oltre alle immagini che citavi tu e quindi a un rapporto contrattuale con lo stesso Kakà quando si trasferirà negli Stati Uniti, perché appunto la formula di questa operazione mi sembra preveda anche poi il passaggio di Kakà dopo il Mondiale Carioca ai Los Angeles Galaxy, potrebbe anche appunto prevedere che magari la somma versata da Los Angeles per l'acquisto di Kakà vada solamente o in gran parte al fondo e invece minima parte al Milan, e in questo modo il Milan restituirebbe al fondo questa sorta di mutuo, di prestito, insomma operazioni finanziarie come vedi sono sempre più all'ordine del giorno, soprattutto in società come il Milan, che hanno sicuramente fatto molto sui bilanci riequilibrandoli, ma che non hanno ancora risorse proprie, posto che l'azionista ha chiuso il rubinetto e che devono costruirsi dei fondi per il futuro per fare operazioni in proprio. Siamo a caccia degli ultimi spiccioli. Detto questo, se davvero la Doyen dovesse entrare in questa trattativa, lo hai detto, il Milan farebbe da apripista, sarebbe interessante capire se qualcuno è in grado di seguirla e soprattutto qual è il pensiero della Federcalcio, secondo me anche dell'UEFA. Platini ha detto chiaramente che questi fondi e le cosiddette terze compartecipazioni sono un male per il calcio, però è anche vero che questo è il mercato. Sì, proprio due giorni fa Platini ha parlato in una sorta di rapina a proposito delle attuali regole del calcio mercato e si riferiva in particolare alle cosiddette TPO, alle third party ownership. Sicuramente queste regole hanno permesso al calcio brasiliano di crescere molto, hanno permesso a molte squadre del Portogallo di crescere, di allevare campioni in casa e di venderli poi in maniera molto profittevole. In Germania, in Inghilterra sono esplicitamente vietate, ovviamente lo sono anche in Italia, FIFA e UEFA vogliono vietarle, però qui si scontrano due grandi esigenze, e cioè quello del calcio europeo di restare a galla e non essere invasa da sceicchi oligarchi, allora anche queste forme di finanziamento potrebbero essere una strada per evitare l'invasione di sceicchi oligarchi, oppure appunto affidarsi a un calcio duro e puro, che è quello del fair play finanziario, che però dovrebbe essere applicato in maniera rigida dalla UEFA e comportare sanzioni importanti a quelle squadre, mi riferisco. Sì, l'appuntamento è per maggio, io credo che vedremo, siamo tutti molto curiosi. Siamo di tutti come, molto come la curiosi UEFA di vedere se Platini ce la fa. Grazie a Marco Bellinazzo. Grazie a voi, a presto. Grazie Marco Bellinazzo, questo per provare a fare chiarezza su che cosa sta capitando in questi minuti a Madrid. A Roma invece ancora 0-0 tra Roma e Verona, siamo al 39esimo del primo tempo. Lo abbiamo detto, questa sera programma interessante, proviamo a sentire qualche voce della vigilia partendo da quella che secondo me è la partita più stuzzicante, cioè Catania-Inter. Mazzarri. A me piace la gente, quando viaggio per strada mi vedo i tifosi dell'Inter che mi vengono e dicono: mister, l'anno zero si riparte, siamo fiduciosi, nel più breve tempo possibile bisogna tornare a essere competitivi, quanto ci metteremo? Io vedo che la gente qui è acculturata, ha capito il senso di quest'anno, io quanto ci si avvicina agli altri non lo so, e noi in questo momento, in questa fase particolare di questa società, bisogna pensare così, non pensare ad altro che fare la prossima al meglio e crescere. Intanto questa sera dovrebbe debuttare dal primo minuto Taider, davanti invece ancora un Inter prudente con Alvarez e Palacio. Maran, Catania. È un Inter molto compatta, che concede pochissimo e che persa palla è brava nel risistemarsi. E secondo me è una delle squadre più difficili da incontrare, proprio perché ti mette nelle condizioni di avere poca fluidità di gioco, e in questo rivedo proprio il lavoro di Mazzarri. A proposito di lavoro di allenatori che stanno costruendo un progetto interessante, Montella però su Neto, abbiamo sentito Carlo Laudisa, il portiere a Firenze non arriverà. Lui dovrà essere, lui Muno, ma in questo momento stiamo parlando di lui, ma deve essere più forte di tutte queste chiacchiere. Io faccio un esempio semplicissimo: se avesse preso il gol che ha preso ieri sera a Neuer, che è portiere forse più forte del mondo insieme a Buffon, secondo me avrebbe subito tante critiche anche su questo, quindi lui deve essere più forte di tutti. L'errore ci sta, però c'è la fiducia nostra, di tutti e della squadra soprattutto. Un Osvaldo dalla provincia di Cagliari, buon pomeriggio. Ciao, prego. Io telefono dal Quartus Sant'Elena, dal famosissimo, vicino al famosissimo stadio Isarena. Famosissimo e che purtroppo, o per fertuna... Ma noi abbiamo un grandissimo presidente di calcio, del Cagliari Calcio, che fa dei giochi di magia veramente eccezionali. Oggi ce l'abbiamo, domani no. Lo stadio. Beh, però mi sembra che di Cellino dobbiate essere orgogliosi voi cagliaritani. Ma io dico veramente che Cellino no, per carità, forse è uno di quelli che rende la vita calcistica meno noiosa in Sardegna, ma anche la vita, diciamo, la vita societaria, la vita della Sardegna stessa è interessante agli occhi del mondo, dell'Europa, perché insomma riuscire a fare questi giochetti di magia così non è da tutti. Però adesso scherzi a parte, sinceramente ringrazio Cellino per quello che sta facendo. Non credo che ci siano altre persone oggi come oggi in grado di poter tenere una società in Serie A, una società di calcio in Serie A, così come la sa tenere lui, il quale deve barcamenarsi oltretutto fra mille furbacchioni come il Milan, come la Juve, eccetera. Ecco, quindi sì, è stato molto coerente Cellino, ha detto a inizio mercato che i pezzi pregiati del Cagliari non partivano, o se partivano sarebbero andati via a determinate condizioni e soprattutto entro certe date. Fin qui è stato coerente, ho l'impressione che lo sarà fino alla fine, lo abbiamo sentito, la pista Nainggolan, la Juventus la sta mollando, non lo so, potrebbe magari esserci qualcosa su Astori. Però ho l'impressione che alla fine resteranno tutti a Cagliari e i tifosi del Cagliari potranno vivere un inverno sereno e magari da fine settembre anche un inverno con lo stadio, che è quello di Cagliari, risistemato, perché le scene viste l'anno scorso sono oggettivamente vergognose. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Roma e Verona se le stanno dando di santa ragione, siamo alla fine del primo tempo, 0-0 il risultato, partita che via via con il passare dei minuti si è fatta durissima, l'ultimo ammonito Jankovic per un'entrata dura su Francesco Totti. Lasciamo il calcio, lo lasciamo per qualche minuto, lo lasciamo perché siamo a tre giorni dal via del campionato europeo di pallacanestro. Abbiamo seguito anche con un po' di angoscia le notizie arrivate quest'estate dal ritiro della nazionale azzurra, con una vera e propria moria di infortunati: Gallinari, Bargnani, Hackett, Polonara, l'ultimo in ordine di tempo Mancinelli. Non ci siamo davvero fatti mancare nulla. Buonasera a Gigi da Tome. Buonasera a voi. Allora, a che punto siamo? Perché l'europeo è dietro l'angolo, io non so davvero da che parte prenderla. In tanti ci stanno scrivendo e ci hanno scritto, conservano speranze, grandi speranze per questa spedizione della nazionale in Slovenia, anche se io non so nemmeno come si possa giudicare ad esempio questo periodo di preparazione funestato dai tanti infortuni. Insomma, come partiamo? Partiamo adesso, siamo al momento insomma più vicino appunto all'europeo, quindi scalpitiamo per iniziare, la preparazione è finita, quindi il carico di lavoro è finito, abbiamo fatto tanti amichevoli, ci prepariamo, adesso ci avviciniamo alla sfida con la Russia e cominciamo a parlare di tattica, appunto degli adeguamenti che faremo in vista appunto della prima partita, che essendo un girone così livellato, con squadre così forti, sarebbe molto bello e molto importante iniziare con il piede giusto. C'è il rischio di deprimersi un po'? Leggendo che avete perso 6 delle ultime 8 amichevoli di preparazione, leggendo dei tanti infortuni, poi ne parliamo, c'è un po' il rischio di depressione? No, ma non serve a niente, deprimersi non porta da nessuna parte, dobbiamo renderci conto di quelli che siamo senza pensare a quelli che non ci sono. Secondo me siamo un gruppo di buoni giocatori che sta lavorando bene e che ha la possibilità di giocarsela con squadre di livello sicuramente superiore a noi, però l'obiettivo è appunto andare lì, giocare a viso aperto e fare il meglio delle nostre potenzialità. Deprimersi veramente lo trovo inconcludente. Ti è mai capitato di vivere un periodo così, nel senso di perdere in un momento di preparazione così tanti compagni, anche importanti, quasi una maledizione? Ti è mai capitato in carriera? In nazionale forse no, sicuramente è l'estate più sfortunata della mia esperienza. Nel club mi ricordo è capitato un anno a Roma che avevamo avuto tantissimi infortuni e fa parte del gioco. A volte capitano alla tua squadra, a volte capitano agli altri, però non sarebbe giusto né nei confronti dei giocatori che ci sono, ma anche per la nostra voglia, del nostro desiderio comunque di far bene, non sarebbe giusto pensare a questi infortuni, potrebbero diventare un alibi. Noi non dobbiamo pensarci, dobbiamo andare in campo e pensare di fare meglio di quelli che siamo, soprattutto perché siamo in nazionale e ognuno deve dare veramente più del massimo che può dare. Che Italia vedremo in Slovenia, al netto di quello che siamo detti, quindi le assenze, la necessità, mi pare di aver capito anche in corso di preparazione, di costruire Italie sempre diverse man mano che venivano a mancare delle certezze. Che Italia vedremo? Ma un'Italia che sicuramente avrà un gap fisico nei confronti degli avversari, quindi gioco forza dovremmo cercare di essere più imprevedibili possibile, più dinamici, più veloci, avere dei quintetti atipici per togliere dei punti di riferimento agli avversari. Appunto abbiamo cercato qui di fare questi adeguamenti man mano che le defezioni aumentavano. Cercheremo appunto di portare questo spirito collegato allo spirito dell'anno scorso, quello di aiutarsi in attacco e in difesa per sopperire appunto alle lacune che possiamo avere, sia fisiche ma anche magari tecnico-tattiche, per appunto cercare di fare il meglio possibile. Esiste il rischio di entrare in campo, come ha detto Pianigiani dopo l'amichevole con la Grecia, pensando di non essere in grado di poter vincere quella partita? Voi avete davanti degli avversari, e tu lo hai ricordato, a partire dalla Russia, che sono forti, che sono competitivi, che sono magari squadre che possono anche pensare di andare avanti. Esiste il rischio inconsciamente di essersi dati un alibi? Ma io personalmente, quando vado in campo, il bello della pallacanestro è che si parte 0-0 e non c'è la squadra favorita, ma poi può succedere di tutto fino all'ultimo secondo, quindi quando personalmente vado in campo non mi sento mai sconfitto, neanche quando gioco contro squadre che sono più forti di noi. Però è capitato per esempio l'anno scorso a Turchia, che era sicuramente più forti di noi, ma l'abbiamo battuta due volte stando sotto 38 minuti su 40, però la pallacanestro è così, noi dobbiamo crederci, se non ci crediamo noi è difficile poi raccontarla ai tifosi. Quindi il titolo è seguiteci, abbiate fede in noi perché noi ci crediamo. Ma io ci credo personalmente, perché comunque tutti noi abbiamo voglia di fare benissimo. Ovviamente questo non vuol dire promettere il risultato, però la nazionale è la squadra di tutto il paese, ed è banale insomma che tutto il paese debba fare il tifo per noi, soprattutto perché siamo in un momento di difficoltà e soprattutto perché sarebbe un'impresa ancora più grande fare il risultato quando si è così totalmente screditati agli occhi di tutti. Merino dove è puntato? Non ti dico zona medaglie, ma l'obiettivo minimo è superare il girone. Qual è il vero, reale obiettivo? Sì, sicuramente superare il girone, appunto perché ci sono squadre che puntano obiettivamente alla medaglia, e quindi già lasciare, eliminare una di queste squadre sarebbe un buon obiettivo. Lo era all'inizio del raduno e lo è ancora di più adesso, dopo tutte le defezioni che sappiamo. Persi per strada Gallinari, Bargnani, Hackett, l'elenco evitiamo di farlo. Tu certo. Senti una pressione particolare su Gigi D'Atome, su di te, anche per il fatto che sarai il quarto italiano nella NBA nei prossimi mesi. Gioco forza, ti guarderemo con particolare attenzione, ma in tanti ti guarderanno, anche gli avversari. No, questo è sempre una cosa che ho ricercato, avere questo tipo di attenzione, di aspettativa. Lo stesso quando vado in campo non penso a quante persone mi guardano, a chi sono, cosa ho fatto, cosa farò, penso a giocare, a fare il meglio per me, per cercare di aiutare al massimo la mia squadra, e io penso che dobbiamo essere tutti intelligenti a capire quando la partita dirà che ognuno di noi deve essere protagonista, dovrà prendersi iniziative, e quando invece per scelte tattiche o per situazioni diverse uno ci sta che possa stare in disparte, anche quelli che teoricamente dovrebbero guidare la squadra. Questo per il bene comune della squadra, senza aver paura di prendersi responsabilità, che anche quelle mi hanno sempre eccitato in campo. Sono sicuramente pronto, ho voglia, ma senza non mi sento assolutamente salvatore della patria, perché in questa squadra penso nessuno sia imprescindibile, siamo tutti utili alla causa. Siete rimasti in tanti, anche se ci sono tanti infortunati, ci sono tanti uomini che possono caricarsi un pezzetto per uno quest'Italia sulle spalle. Allora l'appuntamento mercoledì ore 21 contro la Russia è già credo una gara da dentro o fuori, o in ogni caso una gara che deciderà in gran parte il destino del nostro europeo. Noi ringraziamo e facciamo davvero un grandissimo in bocca al lupo a Gigi Datome. Ciao Gigi. Ciao, grazie a tutti. Ma bisogna che si giochi con un po' di dignità, con un po' di anima, cazzo, nessuno fa un salto, un fallo con la palla lì. Facciamo a cazzotti almeno. Dai. Ma che cazzo avete dentro? Tutti convocati. Intervallo a Roma 0-0 tra Roma e Verona. Intanto vi dico anche che il Liverpool ha battuto 1-0 il Manchester United, l'Arsenal ha battuto 1-0 il Tottenham, il Borussia Dortmund sta vincendo 2-1 a Francoforte, mancano 20 minuti alla fine della partita. Noi ci fermiamo qui, ringrazio Giorgio De Luca, anima di questa trasmissione, Paolo Corleoni, Pietro Lacorte in regia. Ci fermiamo qui o forse no, perché Tutti Convocati torna domani alle 14 con Carlo Genta. Noi invece ci risentiamo domenica prossima dalle 17 alle 19 con Tutti Convocati Weekend. Su Twitter tra pochi minuti vi chiariamo invece il giallo, è lui o non è lui? Quello che mi ha spinto a venire qui a Napoli non sono né giocatori, né società, né città, ma tutto quello che si mangia sempre molto, molto bene, mangia pizza, mangia mozzarella e mangia babà. E invece in Inghilterra si mangiava sempre molto, molto male, fritto, sempre fritto, tutto fritto, e insomma non molto buono per la mia salute. Allora ho scelto di venire qua per mangiare 7-8 pizze. Tutti i giocatori che ho conosciuto più importanti hanno grande pancia, e come dico io, homo de pancia, homo de sostanza.